bisogna dire che il paragone con l'anno precedente è qualcosa che non è fattibile, in quanto innanzitutto, per esempio, nell'anno precedente non esisteva ancora la cassa integrazione in deroga, quindi mancava un elemento. Secondo, è una crisi che si sta evolvendo mese per mese, quindi è significativo vedere quello che succede rispetto al mese precedente. Noi abbiamo gennaio su dicembre con un calo del 17%, con una cassa integrazione ordinaria del meno 20, straordinaria meno 14 e deroga meno 11%. Quindi significa che questo è di fatto il terzo mese consecutivo nel quale l'ordinaria cala in modo vistoso e è il primo mese nel quale comincia a calare anche la straordinaria e comincia a calare anche la deroga. Noi registriamo rispetto ai mesi precedenti quindi un rallentamento, noi l'abbiamo chiamato una grande frenata della richiesta di cassa integrazione. Significa che le aziende cominciano a riprodurre, ovviamente, perché la cassa integrazione è proprio il campanello che fa vedere quando si comincia a riprodurre e quando invece le macchine sono ferme.